rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Come potrete immaginare, parliamo ancora di Grecia e in particolare di un articolo apparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco di Francoforte, il più austero di tutti se vogliamo, che ha sostenuto in un articolo apparso giovedì che la BCE vorrebbe che la Grecia introducesse dei controlli sui movimenti di capitale per frenare quell'emorragia di depositi bancari del paese di cui abbiamo sentito parlare tanto, perché i greci, nonostante magari anche quelli che hanno votato per Tsipras e per Syriza, sapete, i trionfatori delle elezioni anticipate che adesso stanno cercando di rinegoziare il debito della Grecia con la Commissione Europea, con la Banca Centrale Europea e col Fondo Monetario Internazionale, la famosa famigerata Troica, ecco, persino loro forse stanno ritirando appunto i loro soldi. Questo è pericoloso perché c'è proprio un'emergenza liquidità delle banche. C'è da dire che poi la BCE si è affrettata a smentire che questo sia successo, cioè che alla BCE si sia discusso di questa introduzione di controlli sui movimenti di capitale. Il dubbio però resta, e questo rischio appunto di crollo della liquidità delle banche greche è in realtà una delle armi che la BCE ha per costringere Tsipras e Syriza, diciamo così, a più miti consigli rispetto a quelli che avevano annunciato il giorno dopo il trionfo alle elezioni. Parliamo un po' di cose nostre anche, perché come sapete è scomparso da pochi giorni il fondatore del gruppo Ferrero, Michele Ferrero. Ci sono stati i funerali mercoledì ad Alba, funerali partecipatissimi, perché la Ferrero non è soltanto una multinazionale, quindi conosciuta in tutto il mondo, ma in particolare era proprio il simbolo di Alba e tantissime, quasi una sorta di fabbrica città, o comunque una fabbrica in cui la città si identificava molto, anche perché l'industriale, sua moglie e i suoi figli erano poi molto attivi sul territorio e addirittura c'è chi si spingeva a dire che insomma entrare alla Ferrero era come entrare in una grande famiglia. Ecco, allora della Ferrero, del suo ruolo come multinazionale, si è occupato anche Financial Times, spiegando e cercando un po' di introdursi in questo dibattito iniziato proprio il giorno dopo la scomparsa di Michele Ferrero sul futuro di questa grande azienda. Molti sostengono che il figlio non è proprio all'altezza del padre, che quindi forse avrà bisogno di rivolgersi a partner internazionali o magari addirittura stia accarezzando l'idea di vendere. Secondo Financial Times non è così, Ferrero resterà una realtà italiana, profondamente italiana ed europea, anche se ci sono sicuramente marchi americani a cui fa gola. Pensate che Ferrero, sottolinea Financial Times, è quasi veramente un orgoglio europeo, perché è la quarta al mondo dopo Mondelez, Mars e Nestlé. E tra l'altro un fatturato che gigantesco, se ci pensate, per un'azienda italiana che ha pochi colossi mondiali. Il fatturato è di 81 miliardi di euro, con un utile netto che nel 2013 è stato di 545 milioni. Un pochino d'Italia si è occupato anche il New York Times, in questo caso in modo un po' meno lusinghiero, perché il New York Times ha fatto un po' l'analisi di tutte le bugie che circolano sui giornali europei, non magari dette dai giornalisti, si spera, non dette dai giornalisti, però riportate in qualche modo dai giornali europei, e ce n'è anche una molto grossa, che è una dichiarazione di Alessandro Di Battista, che viene definito un astro nascente del Movimento 5 Stelle, che ha deciso così di esternare sulla Nigeria, dicendo che la Nigeria, il 60% della Nigeria è in mano ai fondamentali islamici di Boko Haram e la restante parte è Ebola. Secondo il New York Times è un'affermazione ridicola che è valsa a Di Battista il premio Panzana 2014. E infatti Boko Haram è sicuramente un gruppo terroristico molto minaccioso e molto pericoloso, però non controllano la Nigeria, che tra l'altro è un paese gigantesco, e meno che mai il 60%. E per quanto riguarda Ebola, che sarebbe l'altra grande emergenza della Nigeria, Ebola è sicuramente un'emergenza, tra l'altro un'emergenza che forse stiamo riuscendo a superare, e i casi in Nigeria sono appena 20. Ma veniamo ancora all'Europa, all'Italia, ma soprattutto all'Europa, sempre però vista dall'altra parte dell'oceano. In questo caso vi cito un articolo del Wall Street Journal che ha ospitato un intervento di Michael Leadon, che è un intellettuale della cosiddetta ala neocon, cioè neoconservatrice americana, che ha parlato del nostro Presidente della Repubblica e in generale dell'atteggiamento dell'Europa nei confronti delle questioni dell'antisemitismo. Scrive Michael Leadon: considerando come molti leader europei storicamente abbiano messo da parte la questione dell'antisemitismo e stiano cautamente evitando ogni tensione con Vladimir Putin, che sapete purtroppo è anche, o così appare da molte sue dichiarazioni, antisemita, scrive Leadon, è confortante vedere almeno un paese europeo disposto ad affrontare i maggiori problemi dei nostri tempi. Il riferimento è delle prime uscite ufficiali di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, che è andato a visitare le fosse ardeatine subito dopo la sua elezione e poi ha ricordato, parlando della necessità di contrastare il terrorismo internazionale, il bambino ucciso nell'attentato alla sinagoga di Roma del 1982. Ecco, a proposito di terrorismo e di minacce non soltanto all'Europa ma al mondo, Le Monde si è occupato proprio di questo in un articolo intitolato Le minacce che pesano sull'Europa. A 25 anni dalla fine della Guerra Fredda, scrive il quotidiano francese, l'Europa affronta una nuova serie di minacce. Oltre alla destabilizzazione dell'Ucraina, a cui stiamo assistendo praticamente impotenti da alcuni mesi, il quotidiano cita la sicurezza informatica come una priorità e naturalmente il pericolo del terrorismo del Medio Oriente. Le Monde ripercorre un po' i fatti più gravi, naturalmente a partire dai fatti di Parigi del 7 e del 9 di gennaio, e cerca di ricordare che comunque questa è veramente una minaccia, sì, che viene dall'esterno ma anche interna all'Unione Europea, perché come abbiamo ricordato anche in questi giorni, quando si è detto che sui barconi dei migranti ci sono anche molti terroristi, è bene però ricordare che finora tutti gli autori di queste stragi non venivano dalla Libia, non erano migranti, non erano stati portati in Europa da questi barconi, ma erano residenti o addirittura nati all'interno dei nostri paesi. In ogni caso, secondo Le Monde, l'Unione Europea tutta dovrebbe lanciare delle azioni comuni di fronte a queste minacce, ma gli Stati membri non intendono rinunciare alla propria sovranità in materia di difesa e di sicurezza. Un argomento di cui ci siamo occupati tante volte, il fatto che appunto sì, noi abbiamo un rappresentante, un alto rappresentante per la politica estera, che tra l'altro è Federica Mogherini, un'italiana, però è altrettanto vero che non esiste una politica estera comune. Abbiamo visto come i colloqui con Putin per trovare una soluzione alla crisi ucraina sono stati condotti da due leader europei, Angela Merkel e François Hollande, non da Federica Mogherini. Questo per dire che sono i paesi ancora con il peso maggiore in Europa che poi rappresentano, se vogliamo, la posizione dell'Unione Europea. Non è un rappresentante dell'Unione Europea, abbastanza paradossale, però purtroppo è così. A proposito di questo tema della sfida comune, scrive anche Liberation: da Utøya a Charlie Hebdo e Copenaghen la sfida è la stessa. L'attacco terroristico di Copenaghen ha seguito lo stesso schema degli attentati di Parigi di gennaio. In realtà si può fare un confronto fra queste tragedie e un altro avvenimento che in apparenza sembra seguire un'altra logica, e il riferimento è appunto a quel terribile attentato sull'isola norvegese di Utøya nel 2011, condotto dall'estremista, lo ricorderete, Anders Behring Breivik. Vi segnalo poi un'intervista a proposito di Grecia, perché comunque di Grecia è giusto e continuare a parlare, se ne parlerà ancora molto, quando ci sarà l'accordo, ma anche poi per vedere come questo accordo verrà rispettato. Ecco, la Zeit, che è un settimanale tedesco, che non sembra un settimanale, in realtà se uno lo vede così a prima vista non lo conosce perché ha il formato di un quotidiano, però la Zeit appunto ha pubblicato un'intervista a Yanis Varoufakis, il ministro delle finanze, che ha fatto notizia non solo per le sue posizioni ma persino per come si veste, perché sempre senza cravatta e pare esercitare un discreto fascino sul pubblico femminile, così hanno detto molti giornali, cercando forse anche un po' di alleggerire quelle che sono, è una questione molto seria e anche diciamo molto pericolosa per gli equilibri dell'Unione Europea. In ogni caso, nell'intervista Varoufakis si rivolge direttamente, diciamo, ai lettori del settimanale, quindi ai tedeschi, e chiede loro di ascoltare i greci e magari anche di fidarsi di loro. Spiega che ostilità nei confronti di Siriza con la paura di ciò che non si conosce. Scrive un virgolettato che vi posso citare: l'Europa non era preparata per la crisi greca e ha preso delle decisioni che hanno reso tutto più complicato. Ora l'Unione Europea somiglia a un giocatore d'azzardo compulsivo che continua a rilanciare, ma ha detto a Varoufakis, cercando di ricordarlo a tutti, la Grecia è in bancarotta, quindi non si tratta veramente di un paese che ha tante scelte. Per di più ha ricordato anche che è vero che la Grecia ha preso tantissimi aiuti, tanti miliardi di euro di aiuti, ma è anche vero che solo una minima parte sono poi andati per alleviare in qualche modo le sofferenze del popolo greco, di chi è sprofondato veramente sotto la famosa soglia della povertà. Ultimissima segnalazione che riesco a farvi da Internazionale, un articolo di Berna Anguetta, il dilemma greco e i suoi pericoli, quindi ancora sulla Grecia, ancora su quanto importante sia per dimostrare che l'Unione Europea può essere davvero anche, sì, dura, paladina dell'austerity, ma anche solidale al suo interno. Ecco, appunto, la crisi greca può essere questo, speriamo che sia questo. Era l'ultima segnalazione, come vi dicevo, un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.